informazione completa per il Voltiamo Pagina, oltre che puntuale 8.03 minuti, metà mese, metà settimana, magico mercoledì di Radio Città Fujiko. Alcune comunicazioni di servizio per ritiro premi, non vi ho trascurato, vi verranno comunicate già da ora, in quanto quest'oggi mi recherò alla libreria Ubik con la quale collaboriamo in via Ernerio 27 a Bologna. Ma intanto diamo il buongiorno alla plurifesteggiata Silvia Albertazzi. Buongiorno Silvia. Buongiorno Willy, buongiorno a tutte e a tutti. Ti sei ripresa dai festeggiamenti? Vedo, sì, tutto a posto, ben contenta e felice, lo siamo certo. Anche noi. Guarda un po' che bel libro che hai portato, conosciamo già quest'autore, casa editrice Fazzi, il libro che tu mi hai fatto conoscere in precedenza di quest'autore a me è piaciuto tantissimo. Mi auguro ci sia un repeat in questo caso, a te la parola. Sono certa che ti piacerà anche questo. Personalmente a me è piaciuto ancora di più questo. Dai, bene. E l'autore è R.C. Sheriff, il libro si intitola Nuove abitudini, come hai detto l'editore è Fazzi. E forse è bene dire per chi ci ascolta che Sheriff è l'autore di un libro che abbiamo presentato l'anno scorso, mi sembra, che si intitolava Due settimane in settembre. Di una vacanza bellissima, bellissima. Dove non succede niente, è bellissima. Cioè, e appunto parlava di questa vacanza un po' fuori stagione che si prendeva tutti gli anni il protagonista con la sua famiglia in un paesino di mare nella costa sud dell'Inghilterra, sempre intorno agli anni 30 più o meno. Qui siamo nello stesso periodo e abbiamo un'altra storia in cui non succede niente. Oh, adoro dove non succede niente. Però, così non devo sforzarmi con la testa, vai. Però non è la noia. Solo con le emozioni. Sì, ecco, è una storia di emozioni molto soffuse anche, non passioni, per carità. No. Allora, ti prego di non fare commenti quando ti dirò di cosa parla. Io l'ho per puro caso l'ho letto proprio in questo passaggio tra ottobre e novembre. Bene, parla di un signore che dopo aver lavorato per circa una quarantina d'anni in una agenzia di assicurazioni va in pensione e parla dei problemi di questo pensionamento molto semplicemente, molto tranquillamente. È un libro nel quale ci si può comodamente identificare, credo, perché il signore passa da un senso di smarrimento la mattina in cui si rende conto che è il suo ultimo giorno di lavoro. Poi, durante il ritorno a casa, lui abita in periferia, nella periferia estrema di Londra, nel ritorno a casa in treno si accorge che in fin dei conti adesso gli si apre un periodo di magnifica vita, magnifiche sorti progressive, che è un periodo di libertà nel quale può fare tutto quello che vuole. Allora si fa un sacco di progetti, decide che scriverà una storia d'Inghilterra di nuovo tipo, che farà delle ricerche botaniche, che deciderà il giardinaggio in maniera scientifica. Insomma, fa un sacco di bei progetti che naturalmente poi non riesce a portare a termine, ma quasi neanche a cominciare. Non ho commentato. C'è da dire anche che il libro ti fa vedere appunto come questa sua presenza in casa sconvolge la vita familiare. Lui ha solo una moglie, non ha figli, però questa moglie aveva le sue abitudini, i suoi piccoli riti quotidiani che lui riesce con la sua presenza appunto a scalzare. E quindi poco alla volta poi, ma più che lui, man mano che lui non riesce a fare quello che vorrebbe, si rende conto di non essere uno storico, si rende conto di non essere un giardiniere, si rende conto di non avere amici con cui passare del tempo libero, cioè il tempo è tutto libero a questo punto, ecco, man mano che il tempo va avanti appunto il rapporto con la moglie si deteriora. I due cominciano veramente a darsi sui... A pestarsi i piedi. Sì, praticamente la moglie si rende... Lui, ma anche la moglie, si rendono conto che il loro rapporto funzionava in qualche modo sul fatto che passavano così poco tempo insieme la sera, e alla sera si raccontavano quello che avevano fatto durante il giorno. Ma se invece passano tutto il giorno insieme e non fanno niente durante il giorno. Che cosa si raccontano? Tieni conto che siamo negli anni 30, appunto, non c'è televisione. Non è che si può andare tutti i giorni al cinema, insomma, quindi la sera, per forza di cose, se non hai niente, se devi startene in silenzio, diventa veramente pesante. Ecco, le cose cambiano nel momento in cui si trovano a fare una passeggiata e arrivano a un nuovo villaggio che stanno costruendo in una località di campagna che a loro piaceva. E un giovane immobiliarista gli fa vedere una casa modello che è il prototipo degli insediamenti che ci saranno in questo villaggetto. Loro si innamorano di questa casa e da lì cominciano a pensare di acquistare una casa, di farsi costruire una casa come quella. Danno un senso alla loro pensione. E il problema è che ci vogliono anche i soldi. Quindi noi vediamo come fanno per metterli assieme questi soldi e come sono sempre sull'orlo della bancarotta per comprare questa casa, come si buttano, cioè, diciamo, come buttano il cuore oltre l'ostacolo, si dice così, sì, perché certo. lui parte, lancia in resta. Ma quanti luoghi comuni che ho inanellato in due parole, vabbè. E però poi si rende conto che magari facendo fa dei calcoli, che ci sta per miracolo, insomma. E naturalmente quando ci stai per miracolo regolarmente succede qualcosa che sconvolge, un imprevisto e così via. E non c'è niente da raccontare, ma c'è tutto da leggere. No, c'è tanto, sì, invece secondo me c'è tanto da riflettere. E alla fine posso dire solo questo, perché non c'è niente di strano, è un libro positivo, chiaramente. Alla fine questa casa dà un senso alla loro vita e cambia le loro abitudini, cambia il loro modo di essere, insomma, in maniera anche abbastanza imprevedibile. È uno scrittore willato in tutti i sensi, è uno scrittore che ha la nota dell'emozione prima che dell'intreccio di trama, e questo è importante, ma penso che sia importante per tante lettrici e lettori del Voltiamo Pagina. Innanzitutto non voglio anch'io partire con lancia in resta e ti chiedo se lo metti in palio. Sì, sì, sì. Bene, quindi sarà un motivo in più per conoscere Sheriff. Ne ho grande curiosità, anche perché l'argomento mi interessa assai. Da operaio, della logistica, da lavoratore dipendente fino a essere adesso con un lavoro creativo completamente diverso, con sensazioni completamente diverse, l'idea di un riposo, di una pensione a 55 anni, insomma, non è una cosa così ci si augura, anche se adesso questo... i problemi per quanto riguarda la pensione sono meramente economici. Questo signore che va in pensione ne ha 58 di anni. Quindi non è vecchissimo, ecco. Ma proprio per il fatto che va in pensione improvvisamente si sente vecchio, e lo vedono vecchio anche le persone intorno, diventa... Accidenti, ma è veramente ognuno fatto a modo suo, guarda, non so, t'ho detto, dai percorsi personali poi si maturano le riflessioni, dipende molto da che lavoro si portava nella quotidianità di lungo periodo, questo per me è molto importante. Il libro decisamente, dalla tua presentazione, da motivo di riflessione importante, da lavoratore, da facchino della logistica, quando parlavo con i colleghi più anziani che di solito poi nei percorsi andavano in pensione, capitava di rivederli e veramente avevano una faccia completamente diversa, e la domanda classica: ma è vero quello che si dice, ti annoi? È vero quello che si dice, ti senti vecchio? La risposta era: io non sono mai stato così bene, non sono mai stato così felice. Quindi secondo me dipende molto. Beh, anche io credo che questo libro sia, in questo senso, sia molto molto vero, cioè molto autentico, perché ti fa vedere questo signore che i primi due anni invecchia di decenni. Infatti, ma non sto mica... I primi due anni sta male, proprio perché vede che questa sua idea di occupare con adesso finalmente farò quello che non ho mai potuto fare. Lui faceva un lavoro dalle 9 alle 5 da impiegatino di ufficio. Era un contabile. quindi finalmente mi dedico, mi è sempre piaciuta la storia, ora è l'archeologia, andrò a fare delle gite archeologiche, farò delle ricerche. Poi si rende conto di non avere le basi per fare tutto ciò, di non essere un accademico, vuole dedicarsi al giardino, ma si rende conto che, oltre che essere molto faticoso, sì, che la terra del suo giardino non può far crescere un certo tipo di piante che lui vorrebbe. Quando è in casa capisce che sta nei piedi sia la moglie sia la domestica, cioè, c'è tutta una serie di cose. No, certo, per cui lui i primi due anni veramente è sull'orlo di una crisi di nervi e il suo matrimonio sta per sgretolarsi. È in difficoltà grave. Certo. Quando vedono questa casa e cominciano a decidere di comprare questa casa, le cose cambiano radicalmente. Poi si vedrà alla fine addirittura abbiamo un uomo nuovo che diventa improvvisamente ringiovanisce, anche se vogliamo. Sì, decisamente, come ho detto, i motivi di riflessione sono tantissimi. È un libro villato, secondo me, anche se mi basta la presentazione per arrivare a comprendere determinati contenuti. Allora, citazione cinematografica, anche se non fa parte dei primi quattro che sono capolavori assoluti della storia del cinema, in un Fantozzi va in pensione, tutto questo è riportato, certo, in maniera grottesca, in maniera ironica, in maniera secondo me anche molto intelligente, per fare un parallelismo. Vi è tanto, chiaramente, con il linguaggio di Paolo Villaggio, perdonate la rima non voluta, ma tant'è, e questo è decisamente uno degli aspetti di vita dove la letteratura può, certo, dare espressione chiaramente molto importante. Teniamo conto ovviamente che qui siamo in Inghilterra, sì, negli giusto, anni 30, giusto. Un impiegato della City, quindi di quelli che andavano in giro con la bombetta e l'ombrello, molto un omino, te lo puoi immaginare come gli omini di Magritte, ecco, però di Golconda, molto esattamente, però molto ligio, molto, cioè, non è che occupava una posizione intermedia nella sua azienda, nell'agenzia di assicurazione dove lavorava, non era riuscito a ottenere il posto di direttore a cui aveva ambito, però era comunque rispettata, aveva qualcuno sotto di sé, quindi non era certo uno che temesse un qualche cavuff, gran figlio di putte, eccetera, come Fantozzi. Loop man. Appunto. Questo è importante definirlo, giusto, hai fatto bene a precisare, ma alcuni riferimenti a me nell'immediato hanno riportato. E la moglie non è la signora Pina. Non è la Pina, no. Esatto, assolutamente. Anche se è una signora. E sono senza figli. Beh, tra essere senza figli e avere la Mariangela. Forse meglio essere senza figli. che cattiva. Ascolta, David Byrne l'hai portato come primo brano. Allora, la colonna sonora di oggi è particolare, nel senso che è doppia. I primi due brani sono due brani a cui io penso quando penso casa, che parlano di casa, e questo libro infatti parla di casa. Gli altri due li ho scelti semplicemente da due dischi che mi hanno regalato per il mio compleanno. Bene, auguri. The first place I called home was a row house in Dumbarton, Scotland. I don't remember it, I've never seen it, it's a vacant lot now. The next place I called home was a suburban house in Hamilton, Ontario, Canada. That got torn down too. Then we moved to a suburban house in Baltimore. That got torn down when a highway went through. Then we moved to a nicer house. That got torn down to make a parking lot. Now I move to New York City. Been torn down yet. less we say about it, the better. Making up as we go along. Feet on the ground, head in the sky. It's okay, I know nothing's wrong. Essendo uno degli artisti da me più apprezzato, è un grande talento, David Byrne, dà un po' l'idea. David anche. Byrne, posso David correggerti? Byrne, sì, ma tu puoi tutto. David Byrne è stato uno degli artisti, lo è tuttora, che secondo me ha un po' anche come si presentava, non ha mai avuto particolari look stravolgenti, non ha mai avuto, nonostante la sua fantasiosa composizione, atteggiamenti particolarmente stravolgenti, un grande talento che, nonostante l'apparire da medioman, ha avuto una reale carriera completa che non è ancora finita. È vero, dunque lui appariva da medioman quando era con i Talking Heads, ma lo facevano apposta, si certo. Vestiva proprio da impiegato. Poi io l'ho visto in concerti singoli dove si è presentato nei look più assurdi. È l'artista. Tipo, vabbè, con un kilt oppure con un vestitino tutto di piume, tutta una roba da orsetto, vabbè. Comunque, David Byrne è uno dei miei miti, quindi... No, per carità, lo massima ammirazione, neanche rispetto, piace tantissimo anche a me. E lei, tra l'altro, è un genio completo perché fa fotografia, fa... pittura, scrive libri e oltretutto musica, colonne sonore, eccetera. Tra l'altro, niente, volevo dire, le canzoni che lo dicevo anche prima, le canzoni che ho scelto, le prime due per me sono le canzoni che quando penso a casa mi evocano l'idea di casa. E questa sì, perché lui, comfort zone. Lui comincia dicendo "Home is where I wanna be, but I think I'm already there." Casa è dove voglio essere, ma penso finalmente di esserci arrivato. E in questa frase c'è una delle immagini più belle che io mi ricordo in una canzone, che a un certo punto lui dice verso la fine: "Among those kind of, all those kind of people, you've got a face with a view." In mezzo a tutte queste persone, tu sei l'unica che ha una faccia con vista. Cioè, ah. Una faccia con panorama, cioè una faccia che dice qualcosa. È bellissimo, per me quell'immagine della face with a view è magnifica. Vorrei ricordare anche qui Magritte torna. Sì. Anche qui Magritte. Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori, alle ascoltatrici, che noi facciamo tutte le settimane il video della giusto. Perché nessuno lo guarda, ho scoperto. Sono soddisfazione. O lo guardano molto pochi. Perché poi quando incontriamo queste persone, come la settimana scorsa c'era un'ascoltatrice, no? Ti guardano e dicono: "Ah, ah, che bello, la vedo finalmente. Ma se ci vogliono vedere, c'è il video tutte le settimane, che è anche carino, dai, e dura solo 5 minuti. Per cui... In due. 5 minuti 6 in minuti due. In due, quindi 3 minuti a testa. Ecco. E così, e avete anche il riassunto del libro che abbiamo presentato, e in fondo al video c'è la playlist, quindi se vi sono piaciuti i brani sapete anche che brani erano. Per il video www.radiocittafugico.it e bravo, sul sito di Radio Città. Radio Città Fugico. Fugico, sì. Io sono vecchia, me lo ricordo ancora dai tempi che furono. Ah, ci penso io che sono giovane. Comunque, detto questo, io ribadisco al 333-180-9494 la possibilità di avere questo lavoro, che si conferma comunque, quindi è uno stile riconoscibile. Sì, assolutamente, quindi, è lo stesso stile bene. Del precedente, uguale. Bene, questa è una nota importante. Uno di quei libri che si possono leggere in qualsiasi momento, ecco, certo. che non richiedono una concentrazione tremenda, ma bene. Nei quali appena li cominci ti ci senti calato dentro, ti ci riconosci. È proprio per questa capacità di comunicare che è data da un dono che si chiama talento nella bella scrittura, che Sheriff indubbiamente, secondo me, ha. È uno scrittore proveniente da, intanto ricordiamo... È uno scrittore inglese che scriveva nella prima metà del Novecento, più o meno. Note biografiche di uno scrittore che a noi piace. È morto nel 75, quindi... probabilmente ha scritto anche molto. Era famoso come sceneggiatore a Hollywood, ha fatto la sceneggiatura di film al tempo molto famosi come L'uomo invisibile, La signora Miniver, Addio Mr. Chips, e l'abbiamo riscoperto soltanto negli anni recentissimi grazie a Kazuo Ishiguro, il premio Nobel Ishiguro, che ha letto 2 settimane in settembre, ha detto ma cavolo, ma questo è un grande scrittore. Sì, confermo. E l'ha fatto ripubblicare dal suo editore. E Fazzi giustamente ha colto l'occasione, sì. Ed è stata una scelta molto felice. Quindi diamo il quiz per le nostre ascoltatrici e ascoltatori, il brano musicale, un classico si può dire, nella discografia albertazziana. Dopodiché aspettiamo le risposte. 333-180-9494. Noi vorremmo sapere. Allora, questo libro in originale si chiama Green Gates, cioè Cancelli Verdi, ed è il nome che loro daranno alla nuova casa, Green Gates. Ora, il Gate mi ha fatto venire in mente un brano musicale di musica classica, The Great Gate of Kiev di Mussorgsky. Io voglio sapere chi ha rifatto, quale gruppo ha rifatto The Great Gate of Kiev negli anni, gruppo prog, vi aiuto, negli anni 70, all'inizio degli anni 70. Vai Luigi, questa è e tua. E in quale album? Ah, doppia anche risposta. Il titolo dell'album. Doppia risposta al 333-180-9494. Quindi, chi è l'autore di questo brano di Mussorgsky? Il brano di Mussorgsky è di Mussorgsky. No, chi è l'autore dell'interpretazione chi progressive? È chi ha rifatto, in maniera progressive, sì. Il Great Great of Kiev e in quale album? E adesso ascoltiamo i Beatles. I allora. Beatles, Two of Us. Sunday driving, not arriving. Sending postcards, writing letters. we're going home. You better believe it. Winterlude in Verludio, tesoro. Winterlude sulla strada stanotte. E qui va tutto bene, ti adoro. Winterlude mentre il buio cinghiotte. E guardando dove noi stiamo, l'amore proprio come io vorrei. Resta, non ci lasciamo, sei quella che amo. Winterlude, ma che bella che sei. Winterlude, sei una mela che appesa. Winterlude, giù nel campo di grano. Winterlude, arriviamo alla chiesa. Poi si torna in cucina e mangiamo. Scintilla la pista ghiacciata, arriviamo fin giù al crocevia. La neve è gelata ma la voglia è infuocata. Resta qui, non scappare, sei mia. Winterlude è qui, Rossellina. Il torpore si fa più vicino. Tra il telefono, il filo e la spina, siedi qui, resta accanto al camino. Sonnecchiando sui campi la neve, sopra i vetri si specchia la luna. E la notte riceve la tua visita lieve. E sei grande davvero, sei una grande fortuna. Winterlude, Winterlude. Peppe Voltarelli dal disco Planetario, la terza selezione di Silvia. Tornando in diretta al Voltiamo Pagina di oggi, abbiamo già le risposte ai vincitori, anzi scusate, il vincitore, che diventeranno possibilmente vincitori con il quiz che manderò a breve per avere la pubblicazione da me presentata. Io pensavo invece e canticchiavo mi ricordo cancelli verdi, ma non è, ne ho fatto una cover io, erano di questo. Montagne verdi, lo so, ma è venuto in mente così perché ne ho dato un'interpretazione al titolo di Emerson, Lake and Palmer, perché la risposta esatta è proprio Emerson, Lake and Palmer. Io ne feci una cover di Montagne Verdi che sarebbe piaciuta tantissimo a Vittoria, per cui insomma, allora è meglio che non la canti in diretta. No, ma mai lo farei, però sapete che fuori microfono io sono molto esplicito, però avrò modo di portarla magari in separata sede. Andiamo con i vincitori. Arriva primo, ma la risposta è incompleta, è Luigi. Buongiorno Luigi, direi per analogia Emerson, Lake and Palmer, ma l'album non lo so. E invece lo sa Sabina, che tra l'altro ci saluta per David Byrne, sto cantando e ballando in stazione come se fossi Byrne, niente, mentre penso già che vorrei tornare a casa. Buona giornata. A proposito del tema trattato dal libro presentato da Silvia, Emerson, Lake Palmer, Picture at an Exhibition. Risposta esatta da Sabina? Risposta esatta, che poi oltretutto Pictures at an Exhibition è il titolo della sinfonia, di Mussorgsky, cioè praticamente hanno rifatto esattamente il titolo dell'intera sequenza lavoro. Del lavoro di Mussorgsky. Ok, altra precisazione. Intanto coglie l'occasione per ricordare la bellezza del Prog Festival di Porretta. Grazie Sabina. Però saluto anche Jarno da Calderara, che è arrivato terzo in questo caso, o secondo per meglio dire, perché abbiamo dovuto ritenere non valida la risposta di Luigi. Il mio quiz è facilissimo, per cui attenzione. Per quanto riguarda la pensione, chiedetelo a Andrea Utensili se sta male in pensione, che sentirete tra poco in rassegna stampa con Alfredo Pasquali. Mandate un messaggio: come si sta in pensione, Pelé? Ecco, avrete la risposta. Thank you. Possiamo dire che qualcosa un po' si è mosso nel... abbiamo avuto un 2023 un pochettino così per quanto riguarda le pubblicazioni. Abbiamo presentato invece dei libri nelle ultime puntate che ci portano a questa... Ah, nelle ultime puntate in effetti, sì. Hai capito? Sì. Quindi qualcosina un po' si è mosso e non sarò da meno, perché una tutti i tempi di Lei leggete tutto, del resto è arrivata in Italia solo la trilogia dedicata a Old Filth, vecchia schifezza, o anche acronimo di Filed in London, Train Hong Kong. Si parla dei figli dell'impero britannico, orfani delle loro origini, questi rampolli che vengono cresciuti inizialmente nelle colonie e poi riportati in madrepatria, di solito per andare a prendere posti di carriera in ambito professionale importante, notai, avvocati, giudici. E siamo in un periodo ben preciso. In che periodo siamo? Adesso non voglio fare degli strafalcioni storici, Silvia, tu che sei molto molto attenta a queste realtà, tra l'altro ne faceva parte anche del tuo lavoro didattico. Che periodo è più o meno quello che descrive Jane Gardam in questa trilogia? Diciamo intorno alla prima della seconda guerra mondiale e subito dopo la seconda guerra mondiale, direi. Questo è il periodo che, sì, dove l'impero britannico, di cui vi chiederò alcune specificità, avrà... Anche dopo, perché anche dopo, Hong Kong questo, sì, si libera dopo. Esattamente, ne volevo una, sì, definizione, sì, sì, come, sì, data molto precisa, perché è importante. È importante anche conoscere alcuni aspetti giuridici per quanto riguarda la realtà britannica. Ad esempio, in Gran Bretagna, almeno da quello che descrive la Gardam, un avvocato ha diverse sfaccettature. C'è un avvocato che parla solo con la corte e c'è un avvocato che parla solo con il cliente. E certo, questo è qualcosa di particolare, insomma, al quale noi non siamo avvezzi. C'è il solicitor e il lawyer. Esattamente. Mm. E sono tutti termini che verranno ripresi anche nell'Eterno Rivale, l'ultimo capitolo di questa trilogia che potete leggere separatamente. La trilogia che abbiamo conosciuto con il premio Pellegrino, figlio dell'impero britannico, pubblicato da Jane Gardam nel 2004, arriva in Italia nel 2019, L'uomo col cappello di legno arriva in Italia nel 2021, libro che è molto bello, perché della Gardam leggete tutta la trilogia, ma quello che diciamo dei tre è un pochettino un po' inferiore, ma accidenti, leggeteli tutti. L'Eterno Rivale e il terzo, quello di cui vi vorrei in maniera sintetica parlare, arriva dopo la prima stesura, che è nel 2013, in Italia nel 2023. Si ruota attorno a tre personaggi che sono Old Filth, questa vecchia schifezza, questo personaggio amato e odiato che ha avuto i percorsi che vi ho citato in precedenza. Beh, per l'anagrafe è Edward Feathers, avvocato, poi fa carriera e diventa giudice. Nel secondo lavoro sarà la sua moglie, la sua consorte, questa Betty, che all'inizio non ne voleva sapere, anzi erano molto distanti, poi improvvisamente ci sarà la passione e ci sarà motivo di creare una coppia quanto mai rispettata in un ambiente, come vi ho detto, di professionisti, di notai, di alta borghesia. E concludiamo con quello che invece è protagonista nell'Eterno Rivale, cioè chi è il suo rivale, è Terry Terence Waring, è un collega, tra l'altro l'incipit del figlio dell'impero britannico è per un contrattempo che capita ad Old Filth, resta chiuso fuori di casa, ironia del destino, nella loro fine carriera, anzi diciamo nella loro vecchiaia, appunto in pensione, si ritrovano vicini di casa e lui è costretto, così come si trova, a trovare rifugio o riparo. È inverno, siamo vicini a Natale, a casa del rivale, questo Eterno Rivale. Questa è la partenza della trilogia, da qui si sviluppa tutto un percorso tra storia d'amore, tra eterna rivalità, come porta il titolo dell'ultimo lavoro, dettato da un'ironia un'ironia molto sottile, dettato da una precisione, come vi ho detto, è una scrittrice che porta passione anche nell'argomentazione trattata, ma la particolarità dell'Eterno Rivale è che tutto ciò è raccontato da due amici che sopravvivono a questi protagonisti e ne svelano un po' i segreti di questo che non riesco neanche a definire un triangolo, però insomma ne ha delle caratteristiche, e quindi arriva una visione esterna da questi due amici che vengono appena citati negli altri libri, ma che diventano protagonisti nell'Eterno Rivale e sveleranno i segreti sia di Betty che di Terence e anche del cosiddetto Old Filth, dagli amici chiamati in maniera spregiativa così, cioè vecchia schifezza. In realtà lui è un professionista molto affermato, molto distinto e oltretutto che farà una carriera ben precisa, ma dietro a tutto ciò, come vi ho detto, luci e ombre, scritte da una penna felice, molto ispirata, molto capace, tuttora in vita, classe 1928, ma classe ne ha da vendere dal punto di vista letterario, e risponde al nome di Jane Gardam. Facciamo uno stacco musicale per completare la playlist di Silvia. Hai portato Cat Power. Sì, Cat Power, che canta Bob Dylan. Anche perché anche il pezzo che abbiamo sentito prima, quello di Peppe Voltarelli, era un pezzo di Bob Dylan, quindi ecco, sono hai due. Hai dato una continuità. Ho dato una continuità. Brava. When she said don't waste, the words are just lies. I cried, she was deaf. But she worked on my face until breaking my eyes and saying, what else you got left? It was then that I got up to leave, but she said, don't forget. Everybody must give something back for something they get. I stood there and hummed. I tapped on her drum. I asked her how come. She buttoned her boot and straightened her suit, and she said, don't be cute. So I forced my hand in my pockets and felt with my thumbs. Anche Luigi ha visto Emerson, Lake and Palmer. Ehi. Li vidi allo stadio qualche secolo fa. Digli che l'ho visto insieme a lui. No, glielo diciamo dopo. Ah, glielo puoi c'ero dire anch'io anche quella volta. C'era anche Silvia qualche secolo fa. She threw me outside, stood in the dirt where everyone walked. But io parlo molto di emozioni nel leggere, perché per me sono fondamentali. L'emozione che dà Jane Gardam è qualcosa che è dettata da un dono, il dono di parlare di aspetti specifici dei quali noi magari non sappiamo veramente nulla, ma improvvisamente, se raccontati in un certo modo, ci appassionano, ci coinvolgono. Cioè, ad esempio, io non so nulla di motociclette, ma se qualcuno me ne parla in maniera appassionata, in maniera coinvolgente, ecco, ne voglio sapere di più, resto attratto, anche se è un mondo che più lontano da me non ci si può immaginare. Allo stesso modo, questo spaccato di mondo, di ragazzi che vengono portati in madrepatria, ma inizialmente infanti, cresciuti nelle colonie, si ritrovano non in una situazione di difficoltà, tutt'altro, ma ricordiamo che hanno radici completamente diverse e da loro si aspettano grandi carriere professionali. È un microcosmo raccontato da Jane Gardam in maniera assolutamente appassionante e coinvolgente, e l'Eterno Rivale vede il confronto tra queste due figure che già dall'inizio si intende che sono costantemente nemici. Alla fine troveremo le sorprese, i racconti e i segreti che dà la voce di questi due protagonisti all'interno dell'eterno rivale saranno svelati per la vita di Old Filth. Da Sellerio Editore, il completamento della trilogia di Jane Gardam. Allora Silvia, tu mi hai detto, io ho letto questo libro, l'ho letto in inglese perché è arrivato adesso in Italia, immagino. Sì, infatti non sapevo che non fosse ancora arrivato in Italia, e quando tu hai detto il titolo ho detto cosa? Allora non era una trilogia, era una quadrilogia. No, perché il titolo è diverso dall'originale, che era Last Friends. Quindi ultimi amici, gli ultimi amici, insomma. Lasciamo sfumare tra gli applausi anche il brano di Cat Power. Io per motivi di tempo sarò, intanto vi dico che è un libro molto bello, e se riuscite a recuperare la trilogia di Old Filth è qualcosa di veramente molto molto appassionante al completo. Jane Gardam è tuttora in vita, classe 1928, quindi ne ha viste di cose e le sa raccontare in maniera assolutamente capace. Detto ciò, allora abbiamo parlato dell'impero britannico, qual era, non so se un acronimo o una sigla o qualcosa che comprendeva tutte le colonie dell'impero britannico. Tutte le colonie venivano così racchiuse dall'Australia, la Nuova Zelanda, Hong Kong e tante altre che adesso mi sfuggono e devo pensarci un attimo, però avevano una sigla, un'associazione, una realtà economica. Tu hai già capito, Silvia, come la possiamo definire? Un accordo economico, gli stati del puntini puntini puntini. E dopo, dopo la seconda guerra mondiale, quando molte di queste colonie hanno guadagnato l'indipendenza, come per esempio l'India, che era la più grande l'India. Di tutte, però si sono riunite in una in un organismo. Brava, ecco, ok. E infatti è arrivata la risposta di Jarno da Calderara: è il Commonwealth, è una questione di tempo. Esattamente, la domanda è molto facile. Just a wheeze and a lover. E noi siamo arrivati alla conclusione, presto che è tardi, appuntamento a domani in mostra. Noi continueremo con il video della settimana di presentazione sintetica di Jane Gardam e del lavoro di Sheriff, rispettivamente per Sellerio e Fazzi. Vi lascio all'ascolto dell'EDP enciclopedico e di Liberi Dentro, rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Il Voltiamo Pagina ovviamente tornerà mercoledì prossimo. Vi ringraziamo per l'attenzione, per aver partecipato ai nostri quiz. Vi ricordiamo Libreria Ubic e vi auguriamo un buon ascolto sui 103.1 di Radio Città Fugico, ricordando che con un grande abbraccio si congedano a voi, dopo aver curato questo Voltiamo Pagina, Silvia Albertazzi e William Piana. Ciao. Ciao ciao. In the all night girls they whisper the escapades out on the D train.